Company Yesterday. Company Radio Company Yesterday. Se vuoi viaggiare sereno, scegli Sesto Senso, la polizza d'assistenza di Allianz che installa sulla tua auto un dispositivo satellitare per guidare in tranquillità. Un esempio? Sesto Senso ti difende dai ladri. Se la tua auto si muove senza la chiave elettronica in dotazione, Sesto Senso contatta la centrale operativa che ti avvisa subito e supporta le autorità nel recupero della tua auto a soli 144 euro all'anno. Chiedi Sesto Senso agli agenti delle reti Allianz. Allianz. Soluzioni dalla A alla Z. Mamma, adesso cosa c'è di dolce? Ecco il gorgonzola. Oh oh oh, oh. Il dolce che fa festa. Oh oh. Formaggio gorgonzola, il formaggio di famiglia. Oh oh, oh. Con il contributo di Regione Lombardia. Papà! Sì? Che cos'è la neve? La neve è acqua ghiacciata in cristalli a base esagonale. È il processo di brinazione del vapore acqueo che a temperature inferiori a 0 gradi passa da stato gassoso a solido. Capito? Invece, in caso di pressione barometrica... Quando si parla d'inverno, è importante essere preparati. Fatevi trovare pronti con BMW Winter Date. Il controllo gratuito e accurato della vostra BMW. Venite nei centri BMW Service aderenti, dove potrete trovare anche una vasta gamma di pneumatici invernali, per viaggiare sicuri in tutte le condizioni. Le calzature per bambini preferite dalle mamme italiane da oltre 30 anni. Oggi Primigi è anche abbigliamento e accessori per qualsiasi esigenza di tuo figlio, dai primi mesi fino a 14 anni. Collezioni create con lo stesso amore per la qualità e lo stile che hanno reso famose le sue calzature. Primigi, nei migliori negozi per bambini e in tutti i Primigi Store. Cercali su primigi.it. Primigi, un'avventura straordinaria! Boss presenta un'auto in panne. Quella mattina, col freddo, la macchina del tuo capo non partiva. La tua, invece, sì. Perché sei stato da Boss Car Service per la promozione Winter Checkup. Fino al 4 dicembre, diagnosi professionale gratuita e sconto del 20% sui ricambi Bosch in promozione. Se fai il tagliando dai Boss Car Service, non perdi la garanzia del costruttore e ogni riparazione è garantita 2 anni dalle 1500 officine della rete. Boss Car Service. Tutto con qualità e convenienza. Info su boschcarservice.it. In tutti i negozi CAD, bellezza e igiene, speciale Maxi Risparmio, tanti prodotti in promozione. CAD è sempre vicino a te, CAD è il meglio che c'è. Gli sposi di Riso e Confetti. Il 6, 7, 13, 14 novembre Pordenone Fiere presenta la 12ª edizione del salone dedicato al matrimonio e ai futuri sposi. Le ultime novità e tutto quello che ti serve per realizzare un giorno perfetto. Riso e Confetti è alla Fiera di Pordenone il 6, 7 e 13, 14 novembre 2010. Partecipa al nuovo gioco a premi dei Casinò Parque Perla Vinci per un anno. Dall'8 al 30 novembre, dal lunedì al venerdì, accumula in una giornata di gioco almeno 100 punti. Il premio più alto è di 6.000 euro, ovvero 500 euro al mese per un anno intero. Casinò Parque Perla, Nova Gorica, Slovenia. www.hit.si. Dal 13 novembre al 9 gennaio, magie d'inverno a San Vendemiano. In piazza, pista di pattinaggio su ghiaccio con percorso skateway, mercatini di Natale, musica e spettacoli, mostra di Stefan Zavrel, animazione e laboratori. A San Vendemiano, magie d'inverno, dal 13 novembre al 9 gennaio. Ah, è arrivata la consegna. Ciao. Il lavoro è più leggero quando hai un van su cui contare. Nuovo Mercedes-Benz Vito. L'affidabilità di cui vantarsi. Vediamo, ciao. Carraro, concessionaria Mercedes-Benz veicoli commerciali. Infoline 04 22 52 11. Lucchetta Abbigliamento svende e si rinnova. Tutte le migliori marche e firme in 2000 metri scontate fino al 70%. Vesti la famiglia risparmiando moltissimo. Lucchetta Abbigliamento a Pieve di Soligo liquida tutto. Domenica aperto. Inizio liquidazione venerdì 12. Company. Radio Company Yesterday. Su Radio Company continua la vostra serata con Fabio De Magistris, Massimo Santi in regia, ancora tante canzoni da riascoltare per Company Yesterday, quelle di Kim Wilde, Johnny I Jazz, Man at Work, In Excess, Mike Oldfield, Buggles e Peter Gabriel. Company. Radio Company Yesterday. Company. Company, Radio Company. Send me up the wall with a gun in my hand, but I won't pull the trigger. Our destiny is here with the red, white, and blue, so lead me to the slaughter. Now don't be afraid, come join the parade, for the ultimate in sacrifice. It's an old-fashioned story of hope and of glory, a ticket for taking a life. I don't wanna be a hero, I don't wanna die for you, I don't wanna be a hero, no. I'll send me out to war in a faraway land I never knew existed, subjected to the truth, to the horror and pain, until my mind is twisted. And what if I fail? Will you put me in jail for a murder I will not commit? 'Cause you don't understand, till there's blood on your hands, that it's time to forget and forgive. And those who return come back only to learn that they're hated by those who they love. 'Cause you're not satisfied to the thousands who died, and your anger is paid for in blood. I don't wanna be a hero, I don't wanna die for you, I don't wanna be. Radio Company, l'anima della musica.